Epilog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Oggi torniamo a parlare del naufragio del Giglio. Ne torno a parlare una settimana esatta dall'ultima puntata, che feci lunedì mattina improvvisandola su qualcosa che mi sembrava fortemente indicativo di un sentimento nazionale, di un'essenza degli italiani. È passata una settimana, quell'episodio rimane un episodio simbolico. Strano che dopo una settimana qualcosa che è così vicino anche alla possibilità di poterlo vedere, toccare, percepire, considerare, in cui tutte le persone che hanno attivamente avuto parte a quell'episodio sono presenti, libere, possibilitate di dare tutte le spiegazioni possibili, in realtà sulla tragedia del Giglio si sa esattamente quello che si sapeva una settimana fa. Se non parliamo delle vittime e delle persone che si immagina, si suppone e si presuppone che ancora siano all'interno di quella nave adagiata a pochi metri dalla costa. Però è stato interessante osservare il paese riflesso in questa settimana, in questo episodio. Abbiamo osservato l'emergere di alcune categorie rappresentanze del nostro paese che la televisione naturalmente come grande indicatore polso nazionale ha portato in primo piano. Di fronte a quella tragedia innanzitutto gli italiani sono scoperti improvvisamente che sono un popolo di navigatori e quindi è iniziata una grande corsa alla competenza di arti e doti marinare. I talk show di prima e seconda serata naturalmente l'apoteosi è stata laddove, non cito la fonte, ma è sin troppo facile individuarla, apparve il modellino, il plastico della nave. Ma anche da altre parti è cominciata a emergere una nuova forma di reality, che era la rappresentazione del medio salottino italiano con i sopravvissuti al naufragio. Giusto, doveroso, lecito, importante dal punto di vista dell'informazione, sentire le dirette testimonianze delle persone che erano a bordo di quella nave, che però non hanno portato a nessun chiarimento, a nulla di nuovo. Questa mattina i telegiornali sono ancora pieni di dubbi addirittura sull'esatto numero delle persone che si trovassero a bordo, dubbi su quale sarà il tipo di operazione decisiva per togliere quel rottame pericoloso al cui interno ci sono sostanze che potrebbero creare un danno ecologico di dimensioni inimmaginabili. Ancora non sa esattamente qual è il punto di azione più efficace per risolvere o perlomeno per mettere la parola fine a questo tipo di grande show prolungato che sta durando da una settimana. Addirittura l'ex responsabile della protezione civile, in una lettera aperta a Corriere della Sera, Guido Bertolaso, due giorni fa scrisse: per evitare questa tragedia sarebbe bastato scaricarsi un'applicazione per l'iPhone da 2 euro che indicava tutti gli scogli. E mi sembra paradossale addirittura poterlo dire, ma poterlo pensare, e ammesso che fosse vero, paradossale che su un'applicazione di 2 euro stiamo da una settimana impegnati non soltanto noi ma anche le più grandi testate della stampa estera stanno osservando il nostro paese con l'attenzione centrata su questo episodio, che così fortemente ci ha caratterizzato. Ricordate, il punto di discussione esattamente una settimana fa era i due partiti che pare dividessero gli italiani, il partito Schettino e il partito De Falco. Il partito Schettino era naturalmente il partito a cui nessuno era iscritto, ma su cui tutti stavano menando mazzate paurose, perché era il partito dei vigliacchi, dei furbastri e di coloro che non seguono le regole e pensano le regole siano fatte soltanto per gli ingenui che le seguono, degli spacconi, degli sbruffoni, degli affigati, di tutto quello che potete rappresentare come massima abiezione ma allo stesso tempo come massima caratterizzazione del nostro essere italici. E d'altra parte il partito degli inflessibili, di coloro ligi alla legge, di coloro che sapevano esattamente il ruolo, la responsabilità, l'autorità e l'autorevolezza che si poteva appunto amministrare da un punto di così alta importanza come quello di una capitaneria di porto, che era il partito dei De Falco, a cui naturalmente tutti erano iscritti, naturalmente tutti hanno fatto parte dal primo giorno della loro esistenza. Già anche su questo si cominciano a creare i primi dubbi, già non sono così chiari i termini di questi due partiti, già cominciano ad entrare le correnti e le sottocorrenti, anche queste due rappresentazioni manichee della realtà che sembravano così rappresentarci in maniera indiscutibile. Già vedo negli striscioni, negli stadi delle partite di questa domenica, una sorta di messa in dubbio del carattere assolutamente incontrovertibile di queste due prese di posizione. Comandante Schettino, meglio capitano Uncino, da leone sino al giglio poi scappato da coniglio, è uno striscione allo stadio di Novara durante la sfida con il Milan, lo leggo dalla stampa. Mentre comandante Schettino, siamo con te, Club Napoli Meta, che invece dei tifosi napoletani nella trasferta a Siena, avevano dei cartelli che inneggiavano al comandante Schettino. Beh, oggi invece vorrei fare un punto soprattutto con gli ascoltatori. Ecco, come avete visto questa settimana? Quanto questa settimana rappresenta il paese? Non voglio fare una trasmissione per dare informazioni sulla tragedia del Giglio, perché sapete esattamente che da iniziare questa mattina, dai primi programmi mattutini, fra una ricetta di cucina e un massaggio ipertonico, avrete gli inviati, avrete le persone che dal posto vi racconteranno quello che sta accadendo, punto per punto, momento per momento, ma mettendo assieme tutti i secondi di tutti questi reportage di una settimana, ancora non arriviamo a capire cosa sia successo. Sappiamo solamente, e questo è l'unico dato che pare certo, anche se non confermato ufficialmente, che tutto nasce da una sorta di usanza tollerata, che non rientra nei protocolli, non rientra nelle regole, ma fa molto piacere e tanto comodo a tutti, il cosiddetto inchino. Da un inchino nacque la tragedia, da una manovra azzardata, da un passaggio ravvicinato, una sorta di spacconata fatta da comandanti di nave che portano migliaia di persone per omaggiare le persone che stanno a terra, quindi fare felice gli enti turismo, le proloco, i turisti, a loro volta fare bella figura. Ah, poi tralasciavo l'aspetto più importante, più significativo del nostro paese, le donne. La prima donna che apparve è la misteriosa Moldava. La Moldava, prima traduttrice, poi impiegata, poi ballerina, fine addirittura esperta in lap dance. Quindi vedete, c'è stata un'escalation. Dove stava la Moldava? Stava sul ponte, stava nella cabina, stava nella stanza ovale di comando del Costa Concordia. Qual è stato il suo ruolo? Le hanno portato la colazione in cabina al comandante. Era l'amica del comandante. No, non sono, non stiamo insieme, sono soltanto un'amica. Ha assistito alla manovra, ha le stesse manovre. Non si saprà mai, però questo naturalmente dà sfogo a tutte le possibili chiacchiere da barbiere. E poi l'altra donna, l'ultima ragazza ungherese, di cui non si sa nulla, mentre questa subito aveva lasciato dichiarazione alla sua televisione, a tutte le televisioni, già pronta a partecipare a qualche Isola dei Famosi, la misteriosa ungherese non si sa nulla. È una donna le cui genitori hanno detto ci ha chiamato la nave. Non è registrata da nessuna parte, non appare da nessuna parte. 800240024, come vi ha attraversato il Costa Concordia in questa settimana? Cosa voi rimaste? Soprattutto cosa cambierà nel vostro punto di vista di quello che siamo e quello che vorremmo essere. Da dove venite? Da Roma. Siete venuti qua oggi? Ieri eravamo già qui. Da Civitavecchia. E siete venuti qua? Un po' per curiosità. Per curiosità? Per vedere, insomma, è una cosa che non si vede tutti i giorni, ringraziando Dio. Non è del Giglio? E è venuta qua da dove? Da Civitavecchia. Ah, insieme alla comitiva. Domani, se abbiamo dei bambini, le possiamo dire che io c'ero, insomma, ecco, gli possiamo raccontare una storia che insegna qualche cosa. Già, una storia che insegna qualche cosa. E voi che ascoltate cosa vi ha insegnato? Avete sentito? Questa è la sua transumanza dei turisti delle tragedie, degli appassionati del weekend col morto. Prima andavano ad Avetrana e adesso vanno al Giglio. È anche bello perché è in un posto di mare, è in bassa stagione, i prezzi probabilmente sono più abbordabili, si fanno delle belle foto. E poi con l'immagine della nave così adagiata, così simbolica, che ha riempito tutte le pagine, sembra fatta apposta, immaginata, tratta da un libro. Non esiste una foto di naufragio che possa rimanere permanentemente per una settimana di 10 giorni alla vista di tutti. Di solito il naufragio si immagina, si vede, non siete mai il naufragio. Del Titanic abbiamo dovuto vedere due film per capire cosa sia accaduto. Non esistono foto se non della nave inabissata. L'abbiamo visto, abbiamo immaginato, a seconda che vi piaccia la prima versione o il remake molto più famoso, la nave che secondo un effetto cinematografico fantastico si inabissa, diventa verticale, poi scompare lentamente. Beh, di questo invece fermo lì. È un naufragio pietrificato, immobilizzato nella fase dell'inabissamento. Non c'è stato un inabissamento, è solo parzialmente inabissata, ma gente morta, gente dentro probabilmente è ancora cadavere. E quindi, naturalmente, perché perdersi ancora un così grosso e importante spettacolo? 80024 0024. Non so cosa pensiate voi, ma io non ne posso più, sì, devo proprio la stiva piena. Il massimo è stato Vespa, che ha fatto la puntata speciale col modellino della Concorde. Quello però è facile. Quello. E poi ha fatto tutta la trasmissione col tema dei pirati dei Caraibi di sottofondo. Non so se avete. E mi meraviglio che non avesse il Playmobil dischettino per farlo salire e vedere se era possibile farlo salire sulla nave al buio. Ma capisci? Ma ogni trasmissione. Sono tutti che dicono tutto. Sono diventati tutti capitani della marineria. Ma sono tutti dei Cristofori Colombi. Tutti dei Marchi Polo. Poeti, santi, navigatori. Ma capisci? Ma gente che fino al giorno prima non distingueva la poppa dalla prua, andava storto anche col pedalò, adesso ti spiegano come fare le manovre di avvicinamento. Ti spiegano la rotta dalle Molucche a Ischia, ti dicono che le tre caravelle le hanno guidate loro. Ma è possibile che ci siano tanti di quei microfoni aperte per quante sono le bocche che sparano minchiate? Sai chi mi ha detto che sa tutto di navigazione? Scusate, la nostra costumista. Sto a posto? Forse potrà sembrare di cattivo gusto aprire una riflessione del genere con una comica, però mi sembra che Luciana Littizzetto sia stata l'unica che possa essere equiparata al bambino della famosa favola del re nudo. Ci siamo tutti presi sul serio, abbiamo tutti fatto la stessa operazione. Lei è l'unica che, vedendola da fuori, ha detto: ma cosa state facendo? Rendete conto, fate ridere, fate sorridere. È ridicolo quello che sta accadendo in Italia in questo momento. Ma esattamente questo. Non voglio fare l'ennesima autofustigazione nazionale, ma su questo vorrei riflettere con lucidità. E per essere ancora più lucido, ho scelto un osservatore che è molto lontano emotivamente, geograficamente, per nascita, cultura e costituzione dal nostro paese, ma sta osservando da molto vicino questo fenomeno. Peter Leve, buongiorno. Buongiorno. Il collega è il corrispondente in Italia del Dagens Nyheter e sta seguendo la vicenda del Giglio. Scrivendo per un giornale di Stoccolma, probabilmente si intende molto di più di quanto ci possiamo intendere noi, anche semplicemente per nascita e per frequentazione della sua terra, di navigazione di navi, soprattutto in navigazioni difficili. Dove ti trovi esattamente adesso? Allora, io sono tornato al mio ufficio a stampa estera in centro di Roma, ma sono stato quasi tutta la settimana all'isola di Giglio a seguire le cose e cercare di capire cosa stava succedendo. Insomma. Ecco, cosa hai capito? Beh, forse come dicevate prima, insomma, non tanto, che un giallo di scatole, forse non uno dovrebbe dire scatole cinesi, scatole italiani, insomma, che si apre ogni giorno qualcosa di più, insomma, passeggeri non registrati, la Moldava, e poi adesso credo che si è parlato molto del capitano De Falco, il cattivo, l'eroe. Io trovo forse adesso la posizione della Costa Crociere forse più interessante, perché come si è scritto ultimamente non poteva non sapere di questa usanza dei inchini, e forse il capitano vedremo come risponderanno, cosa emergerà, che questa era una prassi, sicuramente la logica lo dice, per fare pubblicità, per sognare la gente, la grande crociera, la nave. Esattamente sabato scorso, notte tempo, già lo dissi, ebbi una notte d'insonnia, qualcuno mi segnalò una pagina del giornale online del Giglio che era stata tolta, in cui c'era uno scambio di corrispondenze tra il sindaco del Giglio e un grosso rappresentante della Costa Crociere, che allora era casualmente anche il comandante del Concordia, che si ringraziavano a vicenda per questo immancabile appunto questo irrinunciabile rituale del passaggio ravvicinato alle coste. Quindi tutto nasce da una nostra usanza fuori dalle regole, da un gioco di azzardo, mi sembra l'unica cosa certa in questo momento, che però non era scritto e registrato da nessuno. Ti sei fatto una tua opinione però di quanto rappresenti il nostro paese, quanto sia simbolico il nostro paese questo avvenimento? Non so, forse sia anche una forma di gallismo, come si dice, macismo, perché si è parlato anche di una sfida da questo Schettino e l'altro comandante, che adesso mi sfugge il nome, però che si era avvicinato a Giglio ad agosto. Chi si avvicinava di più? Sì, chi si avvicinava di più, e adesso te lo faccio vedere, insomma sotto sotto c'è questo, poi ovviamente le origini sono forse anche più antiche, si è parlato della flotta Lauro, alla zona della costiera amalfitana, però quello era un passaggio obbligato, voglio dire, per andare lì in mezzo tra la costiera amalfitana e le isole come Capri, questa è una cosa completamente diversa, che talmente chi pensa, ma... Allora, io pensavo prima, passa vicino a Giglio, perché i crocieri devono vedere questa bella isola Giglio, poi mi sono detto, ma è buio, è gennaio, non c'è niente. Infatti non hanno neanche annunciato ai passeggeri, stiamo approcciando a destra, vedete l'isola di Giglio. No, è solo una cosa per i... Era un gioco interno, una sfida interna, così la vedete. Sì, e in questo caso forse anche di meno come pubblicità, perché voglio dire, è buio, non si possono fare foto, però forse nella mente, insomma, della gente, comandante, desiderare la nave. Il comandante che si scambiò la corrispondenza con il sindaco del Giglio ad agosto, che passa l'agosto, era il comandante Costa Crociere Massimo Garbarino, che passava accanto al passaggio ravvicinato al Giglio e si ringraziava appunto fra lui e il sindaco di dire quanto erano stati bravi, quanto era piaciuto ai turisti a terra questo episodio e quanto loro sarebbero stati fieri di continuare a fare questo tipo di gioco. Sentiamo un attimo un ascoltatore. Samuel, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io chiamo da Udine e ho un'esperienza di mare che è molto molto limitata, non volevo portare per cui nessun episodio riguardo a questo passaggio ravvicinato, riguardo all'arte marinaresca, deciderà chi è competente per farlo. Volevo solo ricordare che in quanto a passaggi ravvicinati la nostra cultura è infarcita di questi, pensiamo solo al film Top Gun e a Tom Cruise che fece la barba alla torre. Pensiamo al Cernis, mi sembra che sia stato. Al Cernis, anche questa, la stessa Formula 1 fa dei passaggi ravvicinati al muretto per salutare in occasione della vittoria o dell'arrivo al traguardo i meccanici e lo staff di gara, quindi i passaggi ravvicinati sono davvero tantissimi e a volte anche pazzi. Un motivo in questi non lo trovo neanche io, soprattutto se un passaggio ravvicinato del genere si trasportano 4.000 passaggi. Quindi anche lei è d'accordo che, come dice il collega corrispondente del giornale di Stoccolma, che in realtà tutto nasca da una sorta di guasconata, episodio di gallismo, episodio da miles gloriosus, da soldato spaccone che manteneva una tradizione non scritta, non ufficiale. Silvestro. Pronto, buongiorno. Sì. Io vorrei intervenire sul fatto che ci si è stupiti che la gente sia andata a fare le foto al relitto o il famoso turismo dell'orrore, ma non dobbiamo dimenticare che questo è dato anche dal fatto che i talk show in genere hanno affrontato l'argomento come fosse un grande reality, mettendo l'accento sui particolari anche più scabrosi, tra virgolette. Guardi, posso dire una cosa? Non vorrei fare le difese d'ufficio, ma ormai la macchina televisione si muove in maniera quasi autonoma, si mandano gli inviati sul posto, si cominciano a fare i collegamenti, si vanno a cercare i sopravvissuti, quelli che possono testimoniare, e non c'è stata occasione migliore per rielaborare lo shock, la paura, il momento brutto da parte dei naufraghi di accogliere la televisione nei loro salotti. Abbiamo visto uno spaccato dell'Italia, anche questo molto importante, abbiamo capito chi è che va alle crociere, sono persone normalissime, appartenenti a una classe di persone che lavorano, molti pensionati, molte madri di famiglia, che avevano questa possibilità lecita, assolutamente non censurabile, di vivere alla grande, di avere una settimana nel paese delle meraviglie, 7 spa in cui ci si poteva massaggiare, ungere, oliare e passare in dei momenti fantastici, sale da gioco, sale da ballo, numeri, intrattenimenti, come ho già detto è una Disneyland per adulti alla portata di tutti. E si è infranto anche questo sogno, e questa non è una cosa da poco, il fatto che probabilmente la botta di vita alla portata di tutti oggi rappresenta l'incubo probabilmente alla portata di tutti. Tu cosa ne dici, Peter, di questa lettura degli italiani e la crociera? Il popolo delle crociere tu l'hai visto dal Giglio, l'hai visto dai nostri talk show televisivi, ti sei fatto un po' un'idea di quanto siamo navigatori in questa fattispecie di navigazione? Sì, però non so se la Svezia sia tanto diverso, la crociera è un sogno per tanti, ma è anche un business ovviamente, e questo è anche un capitalismo, insomma, come si diceva, il Disneyland. Anche noi abbiamo queste crociere che tra la Svezia e Finlandia, che è un arcipelago molto stretto, con dei passaggi molto più stretti, il Mediterraneo e il mare più aperto. Ma esiste l'uso dell'inchino nel fiordo, no, penso? No, esiste l'uso di navigazione molto controllata, perché i passaggi, le navi sono quasi grandi come questi, alcuni adesso, i passaggi sono molto stretti, ci sono stati alcune occasioni, incidenti, dove si è arenato su una secca qualcosa, però senza conseguenze come quello. Sì, ma mai il dibattito c'è. Mai per una sfida del comandante dell'imbarcazione, penso, immagino, non lo so. Sfide di questo genere, da quanto si sa, no, insomma, forse questo è il problema, che in Italia su queste navi non ci sono le capitane donne, forse ci vorrebbe, insomma, per far finire questo gallismo. Sì, non si potrebbero le moldave in cabina, sicuramente. Probabilmente no. Grazie Peter, ti ringrazio, buon lavoro, ci lasciamo per un istante con gli ascoltatori per dare la linea alle informazioni della borsa, 800240024, cosa ha cambiato nella vostra maniera di percepire la vacanza, la crociera, il senso profondo del nostro animus nazionale, quello che avete seguito questa settimana riguardo alla tragedia del Costa Concordia? Melog. La realtà condivisa. Lui si chiama Diego Pagliari, 18 anni, era su quella nave. Benvenuto, Diego. Grazie. Tu sei rimasto lì fino alla fine. La nostra scialuppa è stata l'ultima comunque a scendere, e dalle 9:30 che è successo siamo tornati al porto alle 3. E sono stati comunque attimi davvero comunque duri, e la paura comunque c'è e rimane anche adesso. Abbiamo pensato comunque veramente di morire, eravamo soltanto noi comunque passeggeri e c'era soltanto una persona nell'equipaggio, e gli altri comunque erano andati via, e comunque ci hanno lasciato. Siete aiutati l'un con l'altro? Sì, ci siamo aiutati gli uni con gli altri, e la nostra scialuppa è rimasta due volte incagliata contro la nave, siamo dovuti scendere due volte dalla scialuppa e a spingere noi, e non c'era nessuno, non ci hanno né detto comunque di mettere i giubbetti per comunque per 800240024, stiamo parlando dell'impatto sociale della tragedia Costa Concordia, ma anche più che l'impatto sociale, del venire in superficie alcuni nostri aspetti di probabilmente leggerezza, superficialità, tipica maniera di affrontare sul filo dell'emotività le vicende, che in realtà richiederebbero probabilmente un'attenzione più razionale, più tecnicamente corroborata. Riguardo alle fonti che in realtà sono sotto gli occhi di tutti, sull'argomento di cui stavamo parlando con il collega di Stoccolma poco fa, un ascoltatore tramite Facebook mi segnala un link. L'ascoltatore si chiama Vincenzo, il link è tratto dal blog di Costa Crociere. È una sorta di cronaca entusiastica di una crociera a profumi del Mediterraneo che ha fatto appunto il Costa Concordia fino al 30 agosto 2010, Tunisia, Baleari, Spagna, Francia. L'arrivo a Napoli era previsto alle 13, è omaggiato con il suo saluto e con la sua breve sosta nella rada della Corricella, l'isola di Procida, tutto ciò grazie al comandante Francesco Schettino, di Meta di Sorrento. E qua racconta cosa accade, guardate, questo è sul blog, lo potete andare a vedere anche voi, il link è sulla mia pagina, sul mio profilo Facebook. Una grande emozione non solo per i procidani, ma anche per i numerosi turisti presenti, che hanno accolto la grande possente nave con applausi, striscioni, musica, trombette e vuvuzelas. A bordo di motoscafi, pescherecci, natanti di ogni genere. Sembra l'arrivo del Rex tratto da Marcordo di Fellini. L'arrivo della nave è stato annunciato a 10 colpi di mortaio, ai quali Costa Concordia ha risposto con 3 fischi di sirena rituale di saluto. Sicuramente una gioia, una novità per tutti, anche per gli ospiti della Costa Concordia custodia, pronti sui ponti esterni, con macchine fotografiche e telecamere ad immortalare quel momento unico e a festeggiare e salutare con bandiere e fazzoletti. Come lo stesso primo ufficiale coperto originario di Procida ha dichiarato, una festa, un atto d'amore, un omaggio alla tradizione marinara che i procidiani sorrentini hanno nel DNA. Tanto l'avevano nel DNA che oggi ancora stiamo a parlare di questo tipo di operazione. Lidia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. E niente, io volevo intervenire in merito a quanto lei diceva. Con la mia testimonianza del mio stato d'animo attuale, che è di un'immensa tristezza, constatando che dopo quello che è successo, come lei evidenziava, a tanti giorni di distanza siamo veramente in alto mare sotto tutti i punti di vista. E ho quasi la sensazione, sperando vivamente di sbagliarmi, che anche tutto questo andrà a finire all'italiana con colpevoli che non si andranno, che non si sarà in grado di riconoscere, perché appunto scomparso, si dice scomparso il computer di Schettino, le scatole nere. Un'altra nota di giallo che questa mattina stanno mettendo i giornali, ma poco esatto. Se ne sa di questa cosa, sì. Esatto, le scatole nere fuori uso, la pagina di diario di bordo già strappata. Alla fine veramente ho paura che questi ennesimi morti, come tante altre vicende in Italia, non troveranno giustizia, il che appunto acuisce il mio senso di tristezza e desolazione. Soprattutto sapere quanti sono esattamente morti, quali sono i morti, perché anche su questo ci sono dei grandi margini di dubbio. Interverrà oggi un'unità specializzata nel riconoscimento delle salme, perché non si ha certezza almeno di questo. Noi pensiamo che un paese in cui tutti siamo tracciati in ogni istante la nostra vita, siamo tracciati quando andiamo al cinema, siamo tracciati quando andiamo allo stadio, siamo tracciati quando accendiamo un telefonino, quando andiamo in crociera probabilmente non tutti siamo tracciati. Manlio Camarata, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Ho chiamato al volo questo amico e collega perché questa mattina mi è arrivata la sua newsletter Interlex, dove praticamente anche lui fa una riflessione che assomiglia molto a quello che stiamo dicendo noi. Vediamo se riesce a sintetizzarla alla radio. Ma questa che è uscita stamattina è la prima parte della riflessione, perché non è una riflessione da nulla, bisogna essere molto attenti a valutare i vari aspetti di situazioni di questo tipo. Il problema, io in questa, diciamo, chiamiamola prima puntata, ho valutato soprattutto certi aspetti mediatici. E rileggendola adesso, probabilmente mi accorgo che sotto alcuni aspetti l'informazione ha trattato la vicenda come il comandante Schettino ha impostato la rotta, e questo è un dato su cui bisogna riflettere. L'altro è quello che ho sentito adesso emergere da diverse dai minuti precedenti di cui, diciamo, a questa nostra conversazione, e non è probabilmente la citazione di quel post in quel blog in cui un crocerista entusiasta di questa manifestazione, di questo approdo. Guarda che è il blog ufficiale della Costa Crociere. Questo già la dice lunga, naturalmente, ma ci dà l'idea di una certa cultura del mare che non è quella che ci si aspetta da un popolo che una volta era chiamato, fra l'altro, popolo di navigatori. Questo è un aspetto, secondo me, che va valutato bene, anche perché questo popolo di navigatori in questi giorni si sta dimostrando assolutamente impreparato a capire che cosa succede su una nave, la faccenda, la storia della biscaggina, non so se l'hai notato. Sì, dal primo giorno c'erano link e link. Una biscaggina, dopodiché trovi qualcuno che ti dà il saputello, che ti dà la spiegazione copiandola male da Wikipedia e sbaglia. E questo è una cosa che io trovo estremamente preoccupante, perché rivela una superficialità. Diciamo, ho la sensazione che l'Italia sia abbastanza piena di comandanti Schettino, di gente che se ne sta in plancia così piacevolmente mentre la nave finisce sugli scogli. Sai Maglio, tu che sei stato anche tu un pioniere nell'osservare questo tipo di realtà, l'italiano poi spalmato sul web partecipativo, sulla condivisione 2.0, diventa estremizza ancora più questo suo atteggiamento da bar dello sport di saperla su tutto. Il veloce copia e incollaggio da Wikipedia fa sì che un saccente che per la prima volta sente parlare vagamente di queste cose e possa darti lezioni, e questo ha creato tutta una serie di saputelli, di esperti, di sottoletture. Io non voglio gettare croce addosso a nessuno, né all'informazione ufficiale, né ai telegiornali, né ai talk show che devono comunque confezionare una serata, perché denodare il più possibile di informazioni con il materiale che hanno a disposizione, e nemmeno a quelli che nella loro comprensibile velleità pensano che con un computer davanti e una rete aperta al mondo si possano rimettere insieme pezzi di realtà che altrimenti per cecità, per incapacità, per poca professionalità altri non riescono a fare. Ma io questa mattina volevo fare, sottoporvi anche un altro tipo di lettura. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti. Silvana De Mari la conoscete benissimo, ricordo che è una scrittrice di fantasy, medico, saggista, il suo ultimo romanzo è L'ultima profezia del mondo degli uomini, Fanucci editore. È una delle scrittrici di fantasy più tradotta all'estero. Silvana, tu non trovi però che in questa vicenda ci siano, oltre la lettura tecnica che stiamo facendo con i colleghi, degli elementi di fantastico che per una casualità o non so per quale ragione la riportano a un'infinità di altri frammenti seppelliti nella nostra memoria che sanno di romanzi di avventure e di eroi misteriosi o di antieroi misteriosi, e poi per questo ancora di più aveva possibilità di allineare nell'immaginario comune? No, credo che anzi che sia assolutamente la negazione. Io sono molto contenta di parlare di questo per due motivi, perché per due motivi l'esperto sono io. Il primo motivo è che io per 20 anni ho guidato delle navi, nel senso che io sono stato... Ci avrei giurato che anche in questo trovavo qualcosa che avevi fatto. E il chirurgo, signori, come il capitano di una nave, è un sovrano assoluto che ha il 100% della responsabilità. A me è capitato di dirigere sale operatorie o pronti soccorsi dove ho avuto da direzioni amministrative e sanitarie ordini che io giudicavo criminali. Quando io ho cominciato nel 1976 non esisteva l'AIDS, l'ordine in pronto soccorso era di sciacquare i ferri tra un paziente e l'altro nel citosi d'azzurro, non devi sterilizzarli, avrei contagiato l'epatite B, ho rifiutato di eseguirli. Il paziente aveva a che fare con me, io gli avevo garantito che avrei fatto di tutto per salvare la sua vita e la sua salute. Qualsiasi ordine sia arrivato dalla costa è irrilevante, l'unico sovrano assoluto era il capitano Schettino, lui aveva il patto con il suo equipaggio e con ogni singolo passeggero che doveva usare tutta la sua forza e tutta la sua intelligenza per proteggere le loro vite. Ma il problema era molto, scusa Silvana, questa operazione, il cosiddetto inchino che ormai sembra che è l'argomento del giorno come i gol di Maradona... Se non avesse fatto questo, che nessuno glielo obbligava e non era in nessun protocollo, probabilmente oggi se ne stanno tutti più tranquilli. Signori cari, io ho fatto 3 corsiere per motivi di lavoro. L'inchino è una roba che si fa alle 5 del pomeriggio, quando i passeggeri sono fuori e guardano e dicono che bello l'isola di Ponza, e si fa in sicurezza. Tra fare l'inchino in sicurezza e massacrare decine di persone e perdere una nave, c'è la stessa differenza che c'è tra un chirurgo intelligente e un chirurgo criminale. Non è che non facciamo più la chirurgia per evitare di ammazzare la gente, ma per Dio, c'avete le mappe e c'avete il GPS e c'avete anche altre cose che in questo momento sono infinite, per 2 euro vi tirate giù, eccetera, eccetera. La seconda cosa sono gli scrittori fantasy. E la letteratura fantasy è l'unica letteratura che parla di coraggio, di lealtà e di cavalleria. Cosa caspita è la cavalleria? Allora, Silvana, ferma, non ti voglio interrompere. Un attimo, raccogli il fiato, un secondo, mandiamo le informazioni del traffico, poi avrai tutto lo spazio per spiegarci il rapporto fra letteratura fantasy e fantacronaca che stiamo in questi giorni indegnamente anche noi corroborando. Melog, la realtà condivisa. Mentre camminavamo con la navigazione turistica, anche come si evince dallo squarcio, c'è stato uno spuntone laterale che fuoriusciva dalla roccia, e anche se navigavamo sotto costa proprio per fare la navigazione turistica, credo che fermamente, per ragione di capire e di vedere effettivamente, che la roccia. Questa era la prima intervista fatta al comandante Schettino, visto che la schettinaggine è diventata una categoria dell'esistenza in cui, come dissi una settimana fa, tutti dobbiamo in parte identificarci, fatta appunto dal TG1, era, mi sembra, preso in albergo, ma ancora tutta la vicenda che lo rese protagonista di una settimana di chiacchiere, di discorsi, di fatti, di contestazioni e di difese d'ufficio, probabilmente ancora doveva venire. 800240024, stiamo parlando appunto della tragedia del Giglio alla luce di una sorta di osservazione anche di noi stessi. Ricordate, una settimana fa dissi: attenzione, che in tutti noi cove alberga uno schettino. Quante volte abbiamo schettinato nei nostri rapporti di lavoro, nei nostri rapporti personali, quante volte abbiamo fuggito dalle responsabilità, siamo fuggiti dalle responsabilità, quante volte siamo trovati in imbarazzo, siamo trovati come bambini indifesi, imbarazzati di fronte a un superiore che ci mostrava integerrimo quali erano i confini della nostra abiezione, e quante volte siamo resi conto, guardando dietro l'angolo, quanto anche quel superiore fosse infetto dallo stesso morbo che in quel momento ci metteva sotto accusa. Questo fa parte del grande gioco dell'esistenza, della conoscenza profonda della propria equazione esistenziale alla luce della propria collocazione geografica. Ma andiamo avanti con Silvana De Mari, che avevamo interrotto bruscamente e ci sta dicendo che in realtà la fantasy, disciplina poetico-letterario che lei pratica, è una chiave di lettura e di spiegazione di questo fatto. Silvana. Schettino è figlio del postmoderno, Garrone non abita più qui, le regole d'onore le abbiamo erise, il coraggio adesso si chiama sindrome dell'eroe. Perché qualsiasi cosa noi pensiamo della manovra che ha portato al disastro, qualsiasi cosa noi pensiamo del ritardo con cui è stato dato l'SS, ci sono due punti su cui non c'è nessun dubbio. Schettino è sceso a terra mentre ancora aveva dei passeggeri a bordo, e poi lui, maschio, è sceso a terra mentre c'erano ancora a bordo donne e bambini, prima le donne e i bambini. Questa è la regola su cui è basata tutta la nostra civiltà, è scritto nel Talmud. Gli uomini hanno il 10-15% in più di noi di forza muscolare, perché la loro forza muscolare deve servire per proteggerci. Schettino ha portato in salvo il suo torace inutilmente palestrato. Scusate, signori, ma gli uomini come... Beh, aveva anche un po' di panza, adesso era un uomo, sì, di panza più che palestrato. Era un altro tipo di, diciamo, di don giovannismo locale. Era l'importanza della massa. In tutti i casi, gli uomini come mio marito, mio padre, i miei nonni, anche mio figlio, non sarebbero scesi da quella nave fino a quando c'era una donna o un bambino a bordo. Io, in quanto medico, non sarei scesa da quella nave fino a quando c'era una persona a bordo. Il coraggio, non è vero che chi non ce l'ha non se lo può dare. Il coraggio deve essere insegnato. Il coraggio va coltivato. Il coraggio, come l'ottimismo, è frutto di un'autodisciplina eroica. Chi non ha coraggio, vada a fare l'impiegato del catasto. Nessuno ha messo la pistola alla testa di Schettino. E signori cari, tutti quanti hanno citato Lord Jim. Lord Jim è un accidente, perché in Lord Jim il naufragio avviene per motivi contingenti, non è colpa loro, e loro danno per scontato di non poter fare nulla per aiutare gli altri. Non sono loro che l'hanno causato, con una serie incredibile di idiozie. Quindi la responsabilità di uno che mette in salvo se stesso, dopo essere lui stesso, dopo che si è scelto un mestiere dove tu sei il capo di una situazione dove ci sono dei rischi, tu devi essere lì per dare cura, tu devi essere lì per salvare gli altri. L'importanza che Schettino ha dato alla vita degli uomini del suo equipaggio, alla vita dei passeggeri, è zero. Mi ha molto stupito scoprire che Schettino ha una moglie e che aveva un amante forse su quella nave. Mi ha lasciato esterrefatta di quanto poco una donna si possa accontentare. Silvana Mari ha fatto una precisazione, perché giustamente nelle tante imprecisioni che vengono fatte, anche la letteratura, quando si cita, va citata a proposito. Il romanzo di Conrad citato probabilmente non ha nulla a che fare lo spessore di Lord Jim, accusato e processato per un naufragio anche lui, con quello che è la vicenda cronachistico televisiva del comandante Schettino. Giulio, buongiorno. Buongiorno, sì. Io volevo soltanto rapidissimamente dire che noi italiani abbiamo molte colpe, però anche i giornalisti svedesi che dicono che le loro navi da crociera eccetera eccetera, la crociera della Hurtigruten, crociera che si svolge nei fiordi, alla fine del suo percorso entra in un cul-de-sac di un fiordo del diametro di 400 metri e la nave si gira su se stessa mentre vengono accesi fuochi sulle pareti del fiordo disabitato per la gioia di tutti i croceristi, quindi abbia pazienza. Sì, ma scusi, ma le risulta che sia mai successo qualche incidente, una frase? Certo, l'incidente succede una volta. Ma no, quello lo fa in un fiordo chiuso, può succedere domani l'incidente. Sì, ma non voglio fare difesa. Sì, ma adesso non facciamo una questione nazionale sul fiordo svedese. Probabilmente è fatto in sicurezza e ufficialmente. L'inchino qua è una pratica semiclandestina accettata, come il nonnismo nelle caserme. Quella fa parte probabilmente di una procedura conosciuta e controllata. Non era l'iniziativa di un comandante, tutti chiudevano un occhio perché era una bella paraculata e tutti erano contenti. È un po' diverso. Non mettiamo l'orgoglio nazionale in queste piccole cose, allora voi, allora noi. Il giorno che apprenderò che nei fiordi svedesi c'è un naufragio per una sorta di tollerata imperizia di un comandante, diremmo che lei ha ragione, ma adesso no. Silvana De Mari. Il problema è proprio qui. Grazie ai moderni sistemi, se vengono rispettati e guardati, uno riesce anche a fare cose molto divertenti restando in sicurezza. Se non è sicuro di essere in sicurezza, mi scuso per la ripetizione, non le fa. Deve essere in sicurezza. Nel momento in cui c'è una manovra azzardata fatta alle 8 di sera, quando fa un freddo porco, tutti sono dentro a mangiare, ma anche quelli all'isola del Giglio sono dentro a mangiare, ragazzi. Fatta da uno che non è in quel momento al timone, perché il punto fondamentale è quando si fa l'inchino, guardate il capitano, vi offre l'inchino perché in questo momento il capitano al timone guida lui le robe sue. Oh ragazzi, ma è lo stesso discorso della chirurgia. Se io dico a uno, guardi, facciamo questo intervento qui e poi lo ammazzo perché non leggo le arterie, o si opera in sicurezza e leghi le arterie, o non opera in sicurezza e non leghi le arterie. Il solo fatto che sia successa questa catastrofe vuol dire che non erano in sicurezza. Grazie, non siamo sulle caravelle. Grazie ai moderni mezzi elettronici, questi devono essere in grado di operare in sicurezza. Se non sei in sicurezza, ti fermi, perché in tutti i casi l'unico responsabile sei tu. Come il chirurgo in una sala operatoria, il capitano di una nave è sovrano assoluto, è lui che è responsabile. Io mi fido del capitano, quando salgo su una nave guardo in faccia il capitano, lo stesso quando salgo su un aereo e dico la mia vita è affidata a questo qui. Se anche a questo signore sono arrivati ordini sbagliati della Costa Crociera, se anche la Costa Crociera gli avesse detto adesso guarda tu vai dritto su quel sasso e poi per due ore non dai l'allarme perché nel momento in cui dai l'SS la nave diventa... Era suo dovere in quanto sovrano e padrone assoluto e quindi massimo responsabile sia nel bene che nel male con la nave, di fare quello che secondo lui era la miglior procedura, ma pare questo non sia stato fatto. A domani.